pensavo questo, in una serata così non bisogna rischiare di fare gli avanconi, perché insomma penso siano belli, utili, ma forse ci sono altri modi di comunicare, che poi l'ambiente a volte finisce per non aver visto, perché l'ambiente dopo un altro. Io vorrei parlare di questo, salvo qualche domanda, perché io ho un'esperienza diciamo diretta, diciamo attuale, ero da piccola barchetta, è sempre stato nell'acqua, salute, tutti i tipi, mare, fiume, dovrei. Però questo poi mi è diventato una passione, poi ci metti gli studi, occasioni di lavoro, ma insomma fondamentalmente è la passione. Io sono a buon momento essenzialmente perché non certo per il buon clima, senza offesa, ma l'attrazione per me di buon commento, tutte le occasioni, ci sempre l'occasione della vita, potrebbe essere, io sono stato nella parete, sono stato influenzato dalla mia presenza con la linea Maremma, che c'era Padule, c'era Lombroni, c'era. Però buon commento lo conobbi negli anni 60, quando stavo a Grosseto, già ci venivo. La prima volta di io sono stato in presenza di Saturno, mi fermai a prendere un permesso di pesca quotidiano, feci tempo a fermarmi, mi diceva c'era già una multa, mi sono buttato, però non tanto io lo volevo, come per tuare. E poi dopo ci venne a stare in casa, non si tratta preso, lo so modo. Però già lo conoscevo bene, per cui conoscevo bene il fiume, non vado a piedi. I fiumi io conosco bene, diciamo i due occhi li vedo, il mondo a destra con gli occhi sono Lombrone Abbia, Laffuetti, Fiora, un po' di Tevere, insomma, questi po' le vivo. Ora non sono più aggiornato quotidianamente, ma insomma, diciamo, questa conoscenza così. Anche i Giorretti, ho sempre camminato, anche non mio. Però al di là di questo, il fiume è sempre cambiato, l'ambiente fluviale, si legge il bandino, anche per fare discorsi sulla Maremma, per il bandino lo deve cambiare, già nel 600 parlavano dei corsi d'acqua come erano, si lamentava. Quindi io credo sia vano di pensare di inseguire questi modelli di sicurezza assoluta, sarebbero veramente spendaccioni, credo nessuno stato al mondo potrebbe mai mettersi questo concetto di. Quindi anche la deviazione idraulica, di vedere il fiume come un tubo, come un qualcosa di regolare, è vero, un aspetto, ma poi alla fine è spendaccioni, poi non risponde a quello che sono le aspettative. Io ve l'ho visto sia nei paesi più sviluppati, quelli che ora stanno affacciandosi, i rapporti con i fiumi sono molto simili, insomma, culturalmente. L'inquinamento, la malattia ci sono passati tutti, c'è chi passava prima e passò, chi ci passerà. E strano si riesca mai a imparare la differenza altrui. Però l'epopea di inquinamento macroscopico non l'abbiamo già superata, ora c'è l'inquinamento di più subdolo e quello non si vede, però diciamo questa malattia bene o male l'abbiamo superata fortunatamente. Ora ci sono altri aspetti. Io credo che mi ha colpito a me nel tempo quanti soldi sono stati spesi nell'Albia, lo racconto a chi forse pensa diversamente. Perché l'Albia, io mi ricordo, poi fare un da 60 a poi, prima non lo so, fatto ci fu spesso enormi cifre nel Lombrone nei primi del Novecento, ma a livello proprio di paragonabile all'ente Maremma, quindi operazioni territoriali enormi da riscoprire negli archivi, per cui si vede il frutto di enormi interventi, ma veramente epocali. E andremo a studiare per vedere se con quell'intervento hanno fatto questo, oggi non c'è problema per me. L'Albia, vi dico anche questo, grandi interventi macroscopici a livello di bilanci, di province, sono stati. Nel 66 la famosa alluvione famigerata, che l'indomani dal 66, 67, 68 l'Albia diventò quella che chi la vide prima e dopo, fate conto di vedere la sua strada prima e dopo quando non c'è niente. Questo intervento che deviò, che cambiò tutta l'Albia, per 10-12 anni è rimasto costante, ha avuto un'evoluzione e quella è durata fino a 15 anni fa, e per cui l'aspetto di ora è condizionato a questa epoca, quindi 40 anni. Poi c'è stato, vi ricordo, c'è la memoria poi in ultimi 20 anni, e vi ricorderete quanto c'è stato spesso, grazie al nostro amministratore, grazie al servizio. e per la riproduzione delle sponde, però come si vede sono tre venti, ma a livello di aria, che due anni dopo evidentemente non c'è traccia, perché questi tipi OS, uno fa quei tipi di interventi, io credo che vanno riflettuti, perché ora non c'è più soldi, ma anche se ci fosse, da valutare quanto sia saggio presente in queste opere, pensando all'esperienza benefici del passato. Sembra un discorso molto corrente, no? Per cui anche noi dobbiamo imparare forse gli aspetti meglio sul cervello e non pensare di fondare il muro a cavare quando ci lanci intorno a tutti. Voi vi ricorderete, l'ultimo lavoro non mio, quando la pianta luce in su, fu fatto un taglio a raso anni fa, fresato tutto, perché a quei tempi il padre non c'era, per due anni rimase tutto trucciolato per le sponde, dopo tre anni ci è tutto un viaggio naturale, per cui valutiamo al chilometro quanti cifri ci stanno spesso, molto di più di quelli dei curatori, e poi lo vediamo. Quindi sono guerre, anche queste, tutti chiedono, e io quando si va nei fumi, madonna questa vegetazione, bella italiana, bella, ma io credo sia un argomento di bisogno, perché anzi, io non rimpiango i fiumi puliti di una volta pensando la miseria che portava qua la pulizia. Quando vado nei paesi del terzo mondo dove fanno appena esca dal mio accapati e i fiumi sono puliti, io per ironia preferisco più sporchi o il benessere. Per tutto il modello anche di pulizia dei fiumi, secondo me va rivisto non un concetto così giardiniero, che poi alla fine è da lì che senso ha, ma va rivisto come fascia fluviale condotta in un certo modo, dove il fiume è accettabile, ha una certa vegetazione, perché è impossibile ridurre più di tanto i forti benefici, probabilmente ridargli una dimensione anche di larghezza che aveva prima della fame della terra, pensando anche all'interesse legittimo delle persone fruttiste. Si può andare, però le leggi ultimamente, subdolamente, ricordo, vanno in questo senso, perché non c'è più quella legge. Tutti centinaia di anni, quando il fiume mangiava da una parte, il diritto romano, da una parte mangia, da una parte rilascia. Il danneggiato subiva e quell'altro, diciamo, si espandeva. Ora le norme ultime sono cambiate notizie. Cioè, quando il fiume mangia, dove mangia, c'hai un tempo di reazione come proprietario, breve, nessuno utilizza per mancanza di soldi per l'ignoranza. Dove rilascia, rimane di maniale. Quindi il fenomeno degli ultimi vent'anni, se si esamina, si ha un riscatto giuridico strisciante, non percepito, non ancora percepito, che i fiumi stanno pian piano acquisendo delle fasce di maniali, direi a scapito di proprietari ignari, poi hanno la conoscenza e reagiscano, potrebbero farlo, per cui di fatto si vede gli ultimi anni, io penso fa qualche anno, molti si dice che i fiumi avranno delle fasce, bene o male, dei maniali pubbliche, che non hanno avuto, è un fenomeno, guardate, grande, ma questo a livello nazionale, o no c'è altri regimi, ma i fiumi anche là. Quindi in questa fascia abbiamo uno spazio anche di pensare queste cose, di utilizzare il fiume in maniera nuova, perché tra le volte avremo delle fasce sempre più disponibili di tipo di maniale. Di maniale vuol dire terra di nessuno di tutti, diciamo che superano questi vincoli della fascia. Una cosa ve la segnalo perché mi è venuta ad osservarla e parlando insomma abbastanza condivisa, io così ho degli spunti, ecco, perché anche si dice di lavorare in fiumi, ma guardate, poi c'è il problema dell'accesso, della disponibilità, degli approdi, non è così facile andare a giro per fiumi anche solo a cacciapiede. Vi ricordo che la legge sulla pesca non ha mai dato l'accesso giuridico al pescatore a cacciapiede. Usi il consecutivo era distrutto da Varoia, uno andava con buon senso, con la Landa Lombroni, ma perché c'era l'uso del consecutivo di buon senso. Ma mentre la caccia aveva l'accesso al fondo, in tradizione, il pescatore l'aveva avuta. In teoria uno va dal ponte, cammina lungo la sponda, ma cammini vicino al fiume, e poi l'altro ponte. Ecco, per cui anche gli accessi ai fiumi non hanno avuto mai una veste giuridica, e la età di conquistare, certo, però un'università. Questa storia delle fasce è un fenomeno veramente ci può lavorare tanto, ecco, che di fatto se il fiume non è accessibile è inutile parlare di accesso al fiume. Poi un'altra cosa, allora, questi contatti di fiume, io non è che l'ho scoperti ora, però devo dire che meritano di essere approfonditi, anche io per primo, tutti, voi ne sapete più di me. Io li vedo parecchio come risultato storico di tentativo, che poi di fatto c'è un po', secondo me, poco creativo, siamo lì, per cercare di superare un fenomeno da sempre di contrasto. Il pescatore contro l'agricoltore pompava l'acqua, tutti e due quello che inquinava, quello prendeva la sabbia, quello che pescava. Cioè, storicamente nei fiumi non c'è mai stato, se non ultimamente, questa armonia, questa sinergia d'uso che tanto affinata. Il contrasto dei fiumi, secondo me, risponde anche a questo. Io credo ha senso se il fiume democraticamente viene usato compatibilmente con tante filosofie. Come si fa? Io penso un fiume vivo non è un danno se uno fa un'agricoltura sostenibile in un certo modo, un danno in un certo modo. Se in un fiume vivo ci può stare anche, diciamo, il salto d'acqua utilizzato per l'energia. Ecco, no, prima erano mulini, ma può essere, se vale la pena, può essere un piccolo generatore di corrente, perché no? Corrente. Certo, se uno per dire l'esempio di Ponte d'Abbia, no? È emblematico. Ponte d'Abbia ci si pensò che io sono stato a fare gli operatori importanti, questo, prima di copiare l'inquinamento, poi diventò disinquinato, poi si ritornò a affacciarsi al fiume. Poi cominciò l'evoluzione della pesca, da pesca spontanea a pesca agonistica. Facciamoci un campo di pesca. Fu messo il piano regolatore, furono i finanziamenti. E l'idea fu di partire. Subito il problema, il mulino, se il mulino di Ponte d'Abbia avesse funzionato, chiaramente questo campo di pesca avrebbe avuto da convivere col mulino. Oggi domani dovrà convivere se ci fanno con l'uso energetico. Ma la cosa è possibile. Altro problema, cioè per dire il nodo di Ponte d'Abbia. Poi Ponte d'Abbia, immaginate, se ci pensasse 20 persone la domenica, si diventano la nuova azione giù, a convivere con quelli che pescano il giorno della gara e dovremo poi il prelievo dell'acqua e l'agricoltore gli tiravano col vecchio mugnaio, perché ecco il contratto di fiume secondo me è un'occasione anche per omogenizzare e rendere possibili questi usi auspicabili dopo il disinquinamento. Chiaramente finché c'erano i fiumi ci fu un momento di buio, ora si può riparlare prima, ma vi ricordo che gran parte dei torrenti ancora sono in condizioni elevate, ora che stanno piovuto, non sono tanto belli. Diciamo di torrenti dove uno si può sciacquare la bocca, ce ne sono rimasti pochissimi, però io ho speranza che possano ritornare, perché certi punti sono ritornati e ritorneranno. Poi se le acque ce ne sono più di meno, per esempio un'altra cosa importante, che le nuove sorgenti non sono le sorgenti naturali, ma sono gli acquedotti e le fognature, cioè l'acqua vuole le fognature. Quindi bisogna pensare questo corso alla luce delle nuove, diciamo, input di acqua delle forniture. Vi ricordo, Siena, non volendo, trasferisce l'acqua della Meata nell'aria. E un tubo così, in natura non c'era, ora c'è, facciamo un tesoro. Idem con Monteroni, esce un tubo così tutto il giorno, che d'estate, nella disgrazia, corre più fognature, ma se la fognatura è decorata può essere più fortuna. Cioè vuol dire, non è che tutte le cose sono così dannose come sempre, vanno valutate e gestite. Ora poi se sia meglio riciclare l'acqua dei depuratori, anziché pompare nell'acqua, poi ragioniamo. Vi ricordo la legge che permette di riciclare l'acqua dei depuratori di pochi anni fa. Io l'ho sempre fatta abusivamente perché esiste anche il concetto di obiezione di coscienza, quando si è fatto bene la legge si dirà, non è che vuole fare il controcorrente, ma si capiva che era logico usare l'acqua come depuratore depurata. La legge non c'era, insomma, non è che sono messo da lei, un senso che bastava il depuratore funzionasse. Quindi anche questa, i fiumi ora non saranno più fiumi di prima, che hanno queste acque diverse da prima, quindi bisogna viverci bene e questa è la. Questo è un cattivo che non può essere facile, può essere, diciamo, un'occasione di approfondire. Io vi ricordo, per esempio, che io ho sollecitato negli anni due o tre, per esempio, piccole tesi di laurea per far studiare questi fenomeni. Con la sonda ci ho fatto fare degli studi, per caso magari non mandare i fondi, sull'utilizzo per esempio dei fiumi, i fiumi per esempio, non si vede un qualcosa di scorrere, no? Però nell'utilizzo del suolo, il fiume dovrebbe essere anche concepito, infatti molti lo è, come uno stoccaggio temporaneo d'acqua nelle occasioni che l'acqua non c'è e quando l'acqua corre su le scuole. Ti dico, chi è che di voi, per esempio, tutti quelli che saranno andati a Brenna, per dire, no? Penso tutti ci sono stati, avranno osservato che quando la sua strada si va a Brenna, sulla destra c'è una paratia mobile, che è l'unico esempio da noi realizzato. Avete mai visto questa paratia mobile? Certo, sì. Che se avete una specie di porta, ora per esempio questi giorni spalancata passa il serpenna, aprire, la chiudono, viene chiusa. L'idea nacque da uno che veniva dal Veneto, la storia di Leonardo da Vinci, siamo Vinci a questi porti. Io questi esempi, due l'ho fatto, fa marevo, bellissimo, un'idea così, no? Se a un certo punto c'hai un fiume, che farebbe la serpenna, un torrente, non si secca mai, ora corre di più perché c'è il dopo di San Rocco che lo fa pure. Accendendoci a queste porte vengono a risalire. E il fiume fa. I pesci sono belli risalire, il fiume sale, voi avete 5-10 km, come il fiume è molto basso, la stessa cosa l'ho studiata nello stile, in un canale vaticinale, ma te invasi 200-300 mila metri d'acqua, a te ne pare. La invasi. Quando riempite a aprile l'acqua scorre. Questo volano d'acqua ha dei vantaggi, guardate, meravigliosi. Innanzitutto permette un boom di vita bestiale. Voi vi immaginate i miei fiumi d'acqua quanti alla notte trovano lo spazio di svilupparsi in un boom d'acqua. E poi quando a settembre apri vanno nella mezza, parano. Poi c'è tutte le ripercussioni sulla fatta qui, perché quest'acqua alta praticamente imbeve il terreno lateralmente, che di fatto non annaffera più, che te c'hai la falda qui fra alta d'estate, per dire un uso diciamo diverso, può essere previsto, che non ti fa le guerre dell'agricoltore, per cui praticamente c'hai dei benefici. Poi c'hai anche degli altri aspetti, ora ti provo contro, per esempio, e questo fenomeno stranamente ha fatto sì che in quelle zone le nutrie sono scomparse, ora, supponendo che le nutrie fossero un problema, perché questi bazzi d'acqua gli allargano le tane e questi sono abituati a dei livelli normali, sicché gli allargano, cosa abbassa, gli allargano, alla fine vanno in altri posti, probabilmente andranno in altri posti. La flora ne beneficia, ecco, per dire cosa può essere anche un'innovazione, dice, ma ci sono bastanti che non si sono viste qui. Ecco, un uso con questi artifici del fiume dilata le possibilità di utilizzarlo, da chi ci va con la barca, chi ci va a pescare, chi la dopra e chi ci va a pescare. Per dire, e non è costoso, per dire. Quindi in questi programmi ci vorrà anche dei contributi, anche di inventiva, che lo può dire l'agricoltore, lo può dire l'allevatore. Io credo tanto a questa alleanza, perché le guerre che ho sempre pensato fra chi pompava, sempre si è discusso fra pescatori, seccano su. E mi diceva la gente civile, ma c'è niente, ma è meglio una spiga gratuita o come vedano? E tutti si erano scontenti. Io credo veramente che bisogna anche andare verso questa filosofia. Poi è chiaro, l'acqua pulita richiama la faccia, però la faccia oggi è diviso dalla viabilità. Sinceramente, chi è che non ha osservato che praticamente è impossibile andare a fare? Ma noi pretendo andarci all'automobile dentro l'acqua, che magari si è abituati ad andarci anche la macchina, ma poco a capire. E non è per la mia di pastori, ma perché il tipo di gestione del territorio ha portato tanto all'abbandono anche la perdita della possibilità di fruizione, che va riconquistata nel rispetto della proprietà e di voi, non è che della famiglia. Ora, io non immagino un fiume tipo di agricoltura con tutti questi approdi, con questi decoratini disneyani, fiumellini, un po' di cattiva gestione, costa. Ma semplicemente delle zone semplici dove uno possa andare, poi se ci sarà un SEPA, che ci sarà un SEPA, che siamo più bravi, ma il concetto dove potete usare il fiume in maniera, diciamo, ognuno secondo la sua personalità. Praticamente, vedere questi nuovi immigrati che arrivano, questi famiglioni di polacchi, di che so, costovari, io vedo nell'Orcia che mi rallegra vedere queste, guardate, questo nuovo fenomeno mi dà speranza che per noi non si fa più, vedere questa gente arriva nel fiume, tu essi la domenica, babbo, mamma, bambini, con le gambe di pesce, il pulisca, che mangiano, io porto bene. Se li volta è ancora possibile fare questo, no? È chiaro che il benessere si porta meglio cambi che no, il cavello, no? Però l'idea per cui questo fenomeno secondo me è già in essere, magari fatto come esempio da altre persone, che poi l'abbandono del fiume è stato anche un problema di benessere, dove c'è benessere la gente mangia sempre prodotti migliori, se non cresce di male, invece sempre meglio cresce di fiume. Questo non credo si possa ritornare a un rapporto alimentare che portava anche la gente al fiume, che c'era un aspetto alimentare. Una cosa buona di oggi qual è? Che non volendo il benessere ha portato alla sparizione del bracconaggio, se non per mania, perché nessuno oggi ha più l'esibizionismo di andare al bar e portare un pitale se ne rispoglierebbe. Non le mangia e quindi c'è un'evoluzione positiva, no? E non certo l'ha fatta la legge, qualche pesca e il pescatore. Quindi c'è delle cose anche positive. E questo avviene anche nei paesi avanti a noi. Io mi ricordo 40 anni fa in Inghilterra, i due pescatori prendevano un pesce e lo lasciavano. Io venivo da un mondo che eravamo tutti gatti, dicevamo stupidi. Ora lo facciamo anche noi e si vede un fenomeno questo. Quindi secondo me c'è la speranza di poter gestire il fiume in maniera più sostenibile, in cui è voglio. Perché di fatto la fauna, c'è una fauna diversa, i pesci prima non c'erano, ma anche la carpa prima non c'era, ora c'è un boom di pesci che va al fiume, una popolazione, diciamo, tutti i giorni scopre un pesce nuovo, perché la gente ha capacità consumistica di comprare, chi è che 4 amici al bar, 100 euro per uno, si compra una specie di pesce, si lancia e oggi è possibile. Ma questo non è pesci, solo la cultura si supera, perché non puoi inseguire persone che liberano pesci. Però di fatto la fauna è cambiata moltissimo e si è adattata, per cui il fiume ora non sarà più di prima. Io però non mi immagino questi fiumi così canalizzati, perché la sicurezza delle acque non è mia solo analizzare il fiume, è anche tutto il territorio intorno, gestirlo in un certo modo. Però neanche si può pensare all'agricoltura dei libri, insomma, perché guardate, chi lo fa, io ho un forsettino, so che ogni 2 anni ci prendo 600 euro, ma so pratino, non risolvo il problema, 600 euro è una bella cifra e risolvo 200 metri di fiume, di fosso pulito, che 2 anni dopo ne è come l'anno prima. Per dire, quindi immaginate, io credo che non ci sia ragionevole di invocare queste risorse. Perché proprio una riflessione mia, ma ancora, ora non è la visione, ma anche ritornarsi, perché forse non è neanche giusto. Perché secondo me bisogna assumere di gestirlo, che non vuol dire, cioè l'epopea dei fiumi portati dalle ghiaie è stata una malattia o un inquinamento. Quando inventarono il calcestruzzo, prima non c'era, votati i fiumi. Ora un periodo dopo 30 anni che non male non si scava più nei fiumi, ci crea un equilibrio. Io mi ricordo con grande soddisfazione, ma sarà 8-9 anni fa, riosservai per la prima volta a Darbia via al ponte, ci andavo tutti i giorni, ma tutti i giorni davvero a vederlo, ricominciai a vedere passare la sabbia e per me fu un evento. A me non mi meravigliò di vedere i pesci. Quelli dopo questo caso, di vedere questo fiume che dopo 40 anni di bonifiche bestiali, proprio idrauliche e nel peggio mezzo, fu canalizzata nel 60. Mi ricordo dell'arte del 66, da taverna e da pianella a qui, si faceva tutta a piedi con l'acqua alta così. Io, perché era lì e là, immaginate in quell'anno, ditemi chi c'era, che fauna ci sarà rimasta, 0,1. Immaginate un fiume d'estate andava a 35 gradi, bolliva e d'inverno gelava, poi anni non ci fu niente. Poi dopo il tempo ha formato la buca, siamo commentati. Io mi ricordo in quei 3-4 anni un rigaio tremendo, ranocchi a migliaia, e chiaro, boom di pesce dal collare, per dire no, perché la vita c'è. E poi si cominciano le buchettine così, su, infatti in quel periodo non si poteva andare a barca perché l'acqua era così. Per dire com'è l'allarme, no? Quindi 100.000 volte migliore, no? Ora perlomeno avrebbe bisogno di un aspetto torrentizio, la buca, la franetta, vedi, Quindi non è che è sempre peggio quello che è tornito del passato. E si rivede di passare le sabbie, che la sabbia è filtro, è proprio, la sabbia è il motore naturale dell'autodepurazione di un fiume. E si rivede passare la sabbia, ma non perché, per insieme di cose, ecco, i fiumi stanno ritornando anche di fondare. Ora poi, è chiaro, io sono ingegnere minerario, parlo a amatori, pieni di sassi, questo è l'impianto, no? Andiamo lì a pulirli. Io mi fido certo del cavatore che gestisce la sabbia, però è anche vero che verrà il giorno e bisogna pensare anche di amministrare, non dico capitale della sabbia, ma gli interessi di questo capitale arriva, perché e sarà insulso prendere miliardi quando il fiume comincerà a salire e perdi. C'è dei pezzi doccia, dove bene tutti siano, per chi la conosce, ma bisogna andarci a piedi perché non ci si va con la macchina. A metà sono fra la stazione Montagnata, Montagnata Scalo, e a Valle Pariglio c'è, come si chiama lì, Sant'Angelo Scalo, ma sono chilometri da Montenegro, perché se voglia ci va, dove a metà. C'è dell'ansia di fiume dove veramente si è formato questi immensi giacimenti di ghiaia, dove praticamente io, cioè non è che ci sia un gume di vita, di recupero, che dire l'occhione, l'uccello famoso, bello, non c'è più perché. Vuol dire che poi si sono scelte territoriali, a parte questo aspetto mi sembra sta riprendendo molto, guardate. Quindi l'autodepurazione, sono fenomeni belli. E certo si può anche inquinare un fiume autodepurato, quindi vi direi quello. La mia casa ancora è balorda perché pensare questi torrenti arriva delle schiume bestiali, voi immaginate dei pezzi doccia e chi ci va ad agosto sono pomodorai, perché il pomodoro è un sintomo dell'inquinamento, insieme sopravvivere dei depuratori, quando si vede un fiume di pomodori vuol dire che insomma l'acqua è nutriente, no? E lì ancora siamo, però di buono è i torrenti ci si lavorasse un po' che anni si ravvivano. L'ombrone anche basso, insomma vi dico, andandoci anche in barca si vede, è accettabile, e il fenomeno nuovo è l'acqua salmastra invade l'acqua dolce, ma questo sono fenomeni dovuti proprio a gestione delle falde acquifere. Però insomma diciamo tutto sommato io credo sia meglio ora di dire, ecco, un po' di coraggio anche altri giorni. Però ecco, diciamo, la gestione non può essere casuale, ancora al momento è, non è male la pena. Io credo molto in questa gestione inter diciamo, culturale, no? Di alti valori al tempo libero, per la risorsa. Però ecco, non farei tanto il discorso della Marconi. E poi c'è anche un aspetto importante, è cambiata la flora. Voi pensate, la flora di Fiumiosa non è la flora che devo dire, sia arbusti ma che alberi, allora, ma anche parecchia quella erbacea. Se uno un momento guardasse la flora ora, mettiamo so, 80 specie, e un flash, o si va a vedere, perché poi a volte è bello riandare a vedere dei fiumi ancora ci sono, come erano loro 40 anni, no? Ma non c'è bisogno di andare lontano, per cui uno si rinfresca tra le cose. La flora è cambiata, di essenze arboree di prima ce n'è pochissime. Chi è che non ha osservato il salice sta scomparendo? Soppiantato da pioppi ibridi di seconda e terza generazione rispetto al pioppo nero, al taglio corto. E quindi bisogna rivedere tutto un altro sistema di gestione. Quella flora induce tutto un sistema radicale diverso, cioè con quale dobbiamo convivere? Perché ci mettiamo a pensare di estirpare tutte le piante soppiantate dalla tamerice che ormai quasi scomparsa, per dire non to. Anche questo, secondo me, bisogna, ecco, quindi anche nella programmazione, che poi si arriva alle regole fino all'ultimo piano regolatore, bisogna smettere un po' anche rendersi conto che il fiume cambia, cambierà la flora uguale, con un boom rapidissimo, perché c'è stato un boom di cambiamenti. Io penso che un agricoltore, se va a che vedere le erbe infestanti, è un concetto negativo, perché non si dà per infestante quello che è antagonista alla pianta si coltiva. Ma io, chi è che non ho osservato quante piantine erbacee nuove tutti i 20 anni? Ma quelle sono l'inizio di un discorso che dobbiamo viverci, si può pensare di riservare il cuore. E però anche il fumo che è stato ora non era prima. Quindi secondo me ora la speranza è che con la ricostruzione di queste fasce si può cominciare veramente a ripensare anche la possibilità di certi posti più, certi posti meno, di poter riconquistare l'uso di queste fasce. Riconquistare per avere il tempo libero, l'utilizzo anche della flora e perché no anche per la regolazione delle sponde che permetta la realizzazione, uno scorrimento dell'acqua migliore, perché la fame di terra si è riportato a stringere i fiumi, no? Perché la terra è preziosa. I fiumi dove sono fertili i terreni sono tutti analizzati da sempre, dove no, c'hanno altri aspetti. Non è che l'abbia di fatto un canale, se ci parliamo, un canale, no? Beh, dovuto il canale. Ma più o meno un equilibrio. Poi dopo non so io quanta gente potrebbe trovare il piacere di tornare a far bagno nel fiume, ma però comunque questo facevo la canaccia a piedi, cioè forse il far bagno se anche lui c'ha più voglia di farcelo, ecco. Però immaginarmi un viottolo tranquillo senza spenderci tanto, perché il pisto ce l'ha e poi li gestisce, lo transacco, non si fanno. Ma l'idea di poter scorrere lungo un fiume senza danneggiare più odori, sciacceri, io penso una cosa divina, fattibile, senza pensare a delle cose disneyane, tipo tutte le fontanine, non lo voglio dell'ambiente qui, avrebbe un ambiente tutto spazio. Però credo sia da conquistare. Io mi immaginerei la bellezza di via Sciano, che ci sta a 23 km da un'ora, io non so quanti di voi l'hanno fatta a piedi, perché guardate che è immenso. In Toscana è difficile, ho un tratto di fiumi fra un ponte e l'altro, 23 km e non c'è un ponte. Guardate che meraviglioso, che scelgo c'è lungo, c'è un terreno sterminato, inaccessibile. Non, nessuno sa chi c'è, nessuno lo gode, non è che si conserva perché non ci va nessuno. Anzi, poi ci vanno a fare un'analisi, tipo, il terreno di nessuno. Ma questo è un terreno per me da riconquistare, da, con degli approdi, con degli accessi. Sarebbe bello, ne guardate immenso. Ma veramente bello, non è che sia un fiume ora dell'Alaska, però un fiume sano, pulito, lascia stare l'inquinamento di questi giorni, che chi l'ha fatta a piedi è bellissimo. Voi pensate, ci ho portato degli anziani di 75 anni a piedi, no? Zia, è un fiume ganso, perché qui, siccome l'hanno, cioè, è brutto perché non è naturale, perché dopo il Novecento l'hanno livellato, pensate, hanno scorciato il fiume di circa 5-6 metri, queste anse. La fame di terra, e già sono 23 chilometri, l'hanno analizzato e ha funzionato per 100 anni, si vede tutto un progetto, purtroppo ha funzionato anche troppo bene a livello idraulico, l'acqua è tutta distribuita in un velo, sabbioso, pulitissimo, va lì tranquillo, cioè avete una foresta, un bosco a tunne d'un fresco e buio, è piacevolissimo, uno piglia, ammira, una ammirata lì per me, guardate, non c'è a parere neanche lui adesso, però non è nota. Invito 4-5 a vederlo, ora no, questi giorni. Guardate, veramente è un percorso da segnalare, lo può fare dal bambino all'anziano, perché c'è l'acqua a tausina, sabbia pulitissima, all'ombra, passa, vedete. Cioè ci sta un territorio che dai come fumato veramente bello. È tutto modellato dall'uomo, noi andiamo a pensare, però è veramente bello. Lo segnalo perché per un'ora, per quanto non è conosciuto, è stato su, basta andare sui nomi di tutto, ma è veramente, mi ha colpito sempre. Sì, più magari di altri fiumi belli, le do più per scontare. Questo lo segnalerei, mentre l'Asso, per esempio, è tanto bello, ma in certi posti non è percorribile, perché è talmente stretto dalle coltivazioni, che poi a forza. Altri tratti lo c'è anche, ovviamente camminare. Io mi ricordo, non l'ho scoperta negli anni 70, non c'è appena, non c'era guardato, con la macchina non ce l'avevo, non era un, anche con la no, si fa la doccia, ma non tutti gli anni infattibili, perché è tutto un salire e scendere, no? Perché fa pezzettino, non c'è il corsoio, non è che si può hai anche di oggi che li fanno leggeri, prima non c'erano, io ho bisogno di minimo. Per andare con la barca ad un'acqua così, ma l'acqua così non è che da tutte le parti si trova, c'è sassi, no? Poi un altro fenomeno un po' brutto, ma che sta migliorando, io come essere un po' ottimista, è l'osservazione dei rifiuti nel fondo, fonti dei fiumi è un osservatorio, so che analizza l'asse trasportatore di tutto quello che si butta, ma io la spazzatura si vedeva galleggiare con le pietre, oggi ce n'è meno, perché tutto sommato una raccolta ce n'è un po' di più, con le pietre anche proprio abituata a non buttarla via, ma il fondo dei fiumi, ricordo, ora, col fatto che l'aria ritorna o c'è una pressione, io per esempio ci osservo meno, c'è meno vetri, meno lontani, meno gomme, meno copertoni, ora se uno li vede mi sembrano sempre tanti. Questo fenomeno di naturalizzazione del fondale ha anche questi aspetti, io non ci andrei più ora scasso nei fiumi che prima o poi mi taglierei un piede, prima ci si andava, però devo dire anche quello mi sembra più accettabile, ecco, dopo le piene lo vedo, si vede meno, sì, magari si vede un CD che prima erano diverse, non c'erano i fiumi, per dire, ho trovato in ultimi anni qualche telefonino che ovviamente nei fiumi non c'erano questi oggetti strani, è ricomparsa questa paura minore, dubbia, come pensate nell'aria, che sono animali silenziosi, ci sono milioni, dico milioni, di gamberetti così, che quando una volta li vedi, non ce ne vedevo, l'avevo visti nel 60, e pensi la bottiglia del portare a Ponte d'Arbia, non c'era persona se ne ricordasse, chiamava gli uomini là o ce ne vedevano, e ce ne sono così, sono degli indici, capito? Magari non ho quello della Louisiana, ma un camerettino piccolino che è un indice, ma quanto vale adesso? Io gli ultimi che vedevo sono accompagnati, non ce n'è qualcuno. Vabbè, coraggio, vuol dire, però sono animali piccoli, non si vedono, coraggio. Quindi certi fenomeni sono migliorati, anche di tutti i farmaci, di più, per l'uso di un grossolano sconsiderato, ma che diciamo inconsapevole degli anni fa, insomma, io certo rimane l'inquinamento, quello più micro, la microfogna, lo scavino, quello sarà più difficile, ma insomma secondo me ora vale la pena cominciare a dire riaffacciamoci a fiumi, rifacciamo questi tipi di poste, perché insomma vale la pena. 20 anni fa mi ho detto il senso a andare a navigare nella schiuma, aspettiamo che sparisca la schiuma. Il peccato non ho trovato mai una foto, io non l'ho mai fatta, qualcuno l'avrà fatta, vi ricorderete fino a fare 20 anni fa, la schiuma al Ponte d'Arbia era talmente alta che superava il ponte. Il mugnaio chiudeva le finestre perché la schiuma gli entrava in casa. Io mi ricordo che camminavo, poi non uscivo il posto, no? Non avevo paura. Entravo in questa schiuma. Ma non è che volevo otto, e poi c'è il corso tempo. Gli animali erano imparati a nascondersi nella schiuma, perché diventava un elemento più carnevo. Immaginate quanto mi è dolore. Poi se quella schiuma a livello epidemiologico cosa produrrà le fegati nostre, speriamo di no. Insomma queste cose per fortuna non ci sono più, ecco, ora io, quindi ora vale la pena veramente cominciare a dire qui attocchiamoci di questi corsi d'acqua, li mettiamo, con un fortuna di fondo, quindi ora poi si trova in un banco di casa, che si va come costruita, con un vestito su popolazione di migranti, però credo ci sia spazio per tutti, ma sia per fiducia di questo, per cui la pista e tutte le attività, insomma. Poi ascoltate, non c'è dei fiumi anche un po' noiosi, perché io vedo, ci portavo la gente, no, con la barca, un giorno due venivano, la stessa volta sapevamo, perché la gente vede la televisione questi fiumi, questi fiumi bellini, ma non è che sono proprio eccezionalmente, sono più da scuola qui, non parlo, poi bisogna andare a fiumi belli, no? Però insomma, teniamo conto che ho anche di comune, nel centro mio sto canale di davanti, intendo anche i tratti andare a far giù perché è bello, perché è bello e non annoia mai, anche prima non c'è più tratti. Come può essere, qui è bello, ma è bello nel senso, voi pensate che partendo da Traverre d'Arbia anche l'anni migliori, la corrente forte, forte, forte, a quel momento ci arrivavamo a essere 28 chilometri, lunga. Lunga, ma una barba, perché c'era un canale, non vedi manco dove sei, cioè vuol dire che i fiumi sono belli, ma ora non esageriamo, però ecco, non sono fiumi, diciamo, del nord dell'Italia, però sono piacevoli, ecco, io ho visto quando ci portavo la gente a Ponte d'Arbia, tipo avanti e indietro, quei 2 chilometri, e la gente se ne ricorda, piacevole, ecco, quel pezzettino, dovrebbe essere veramente piacevole, ecco qua. Lì si può andare su 3 chilometri, su in giù, non si dà noi a pescatori, si vede gli uccelli. Ecco. Però ecco, io ne ho molto pescato, insomma, degli amici di Carlo, ma insomma non sono la. Noi già ci veniamo, ecco, una versi è una versi, però non c'è solo una versi, insomma. Questo qua. È tutto da inventare, ecco, però insomma è largo che. Però ecco, non credo di essere riuscito a essere fatto passare, ecco. Però insomma sì, forme nuove, e se non si prende anche così. Ora è anche piacevole, anche nella campagna elettorale, senti i giovani, tutti che devono iniziare a scriverci, poi non si fa, intanto si scrive, questo è un segno positivo, no? Perché quando mai un politico, anche un politico avrebbe pensato, avrebbe messo ben altri temi, no? E questo lo vedo da tutte le parti, un segno diciamo di un rispetto, ecco, in ritardo, in certe funzioni. Nella pratica non si deve fare tanto, però purtroppo ci vuole anche dei tempi umani, fra dire e fare, ragazzi, rassegniamoci, le bacchette magiche ci sono, però cerchiamo di correre, ma se ci vuole qualche anno sarebbe già un tempo breve, ecco. E poi questo territorio bisogna pensarsi non neanche più di uscirlo, che la viabilità. Poi a parte la fascia, che ripartirà, cantiere e tutto, ma la viabilità lungo il fiume potrà essere fatta oggi di prima, no? E per cui bisogna anche sicuramente creare delle condizioni, che tu dici anche a Cede, tranquillamente, che ce ne posti sono dettagli, accessibili veramente, no? Non perché c'è del barri di livello che vuole, perché proprio se scomparsi la viabilità minore, ma nessuno potrà prendere rifatta, né a reali condizioni. O se ci pensate, da Ponte d'Arbia a Siena sulla destra, che è poco un Monte Roni, ma quello è un territorio di nessuno. Dovresti andare all'Albergo, far giro, giù, giri, poi va a finire a calcio, li conosci, ma chi ci fanno? Quello va a impossessarsi del territorio, compreso il fiume. C'è delle zone, guardate, sono state perse, e vanno recuperate in senso buono, no? Di facile, come l'ombrone, ecco. Quindi noi ci sono anche tanti territori, secondo me, da non dico ricolonizzare, ma da riscoprire. Però con la saggezza ambientale di oggi, non vuol dire andarci a fare cercare, però non vuol dire andare, insomma, perché noi veramente ci sarà la scomparsa della possibilità di accedere. Se ci pensate, ora a Ponte Maggioni, prima era accessibile, è impossibile andarci, perché di là è tutto chiuso, le strade sono frenate, ma no, non tutti sono disponibili a fare 10 km, per cui questi pezzetti di fiumi stanno proprio scomparendo, quindi vanno anche riconquistati come accessi. Moderni, cioè, diciamo ecologici, ma insomma accessibili. Ma pensare che la base di Val della Versa non ci va più, non ci si va più, è inaccessibile. Ma non che succede così strano, non ci va più, non c'è più. No, sta scomparendo anche la possibilità di andarci. Quindi neanche ritrovare. Quindi Gari ha inserito negli strumenti urbanistici, però qua non ci mi ha bisogno di superarsi. È tutto da reinventare e coraggio a voi, insomma, ecco perché era. Che se si racconta, io scusate, però da libera, però ecco, non volevo fare un discorso, andiamo al conto, ecco, dico la pesca vede molto ciò, si vuole la maniera o si pesca, e da noi si conta. È che magari non vedo, cioè non c'è più idea, che la generazione di pescatori, sa tutti nascendo più di voi, ma non è che vedo il bambino a pescare. Probabilmente non ci si rivolterà neanche più, ma questo vuol dire che non valga la pena sostenere la pesca. Lì ci andranno bambini e nuovi popolazioni arriveranno, qualcuno andrà, insomma, però non devi pensare a cose che sono come che vedo. Poi ci sono anche dei paesi al mondo che invece questi fenomeni sono continuati, speriamo di prendere anche da, ma per forza non si fanno, ma se non c'è nell'accesso, capite bene, resta la capisci. Anche la bacchetta, qui c'è la bacchetta, però insomma, non è che non può neanche anche in spalla, almeno degli accessi ci vuole, con rispetto della proprietà, figuriamoci. È così, insomma. Se sono inaccessibili, perché abbiamo trovato, c'è poco da fare. Dai, io avevo proposto, ma tu hai parlato comunque l'anima. Una sintesi piccolina di dati a cos'è il contratto di fiume, no? Che poi gira gira su qui quelle magnari nel parlare con di sé. Io non so se seguiva questo schema, ma insomma assomigliava. Perché insomma è banale, no? Ma insomma, di che vuol dire? Qui c'è qualche parolona, ma insomma adesso è un'idea, io non so. C'è da dire che questo è un documento che fa riferimento alla Lombardia e quindi cita una serie di normative, di cose che sono in lombardo. Però alcune di queste leggi, cambiando numeri, ci sono anche da noi. E poi cito una cosa anche per dare proprio che ci tocca. Vorrei dire, Massimo, che l'ho scoperto in questi giorni, è uscito, ma da 5 giorni in rete, cosa avete che ci sono dei territori chiamati SIR e SIN. SIR significa siti di interesse regionale, SIC di interesse comunitario, SIN nazionale, poi ci sono altri sigle. Questa è una maniera nuova di gestire il territorio reale potente. Guardate, un rassegnato è inevitabile, però bisogna, come sta facendo ora, rassegnare è un elemento che prende coscienza, poter dire la nostra, che si imparenta bene. Cioè, noi a buon momento abbiamo uno di questi siti che nasce lì da Percenna e arriva fino a 90, immaginate, no? Però nasce lì, la mia casa con diversione è più condizione. Questo sito, i siti nascono perché per vari motivi naturalistici, la presenza di certi animali, di certi anfibi, anche roba piccola è di importanza, eccetera, la flora e così via. Questa maniera di fare, di vedere il territorio, così come questi strumenti, io credo saranno quelli che con cui dovremo bene o male convivere, poi c'è che accidenta anche la metà, di bene e meglio. Le segnalo perché stanno nascendo ora. Ci siamo nella fase iniziale, dove tutto è possibile, la legge prevede come la partecipazione anche lì, che non vuol dire no, oppure sì, condizionato, però guardate, sono cose da risegnare perché così come la nuova politica di gestione delle acque, che nasce da un concetto di almeno portato in Pendefia, ma consorzi di bonifica, voi non so se avete fatto altro, ma 2% di popolazione è andata a votare tempo fa un affarino con dei lavori che si chiamavano consorzi di bonifica. Questo non è la votazione consorzi uniti a Italia l'annuncio che faceva Gratua, no, sono nuovi strumenti di gestione che noi dovremmo imparare a conoscere, che stanno per nascere, ma sono queste le frontiere entro cui si può portare delle innovazioni sul territorio partecipativo per i prossimi 30 anni. Perché questi siti di bonifica sono legge la legge, non faranno le bonifiche, di fatto non avere fatto, faranno gestione delle acque ordinarie. Quindi pulizia delle fonti, delle acque, gestione straordinaria, dalla diga, che ne so, di Montedolce la Novella Fatta, fino a l'Argini, tutto quello che immaginate, tutto quello di cui si parla. Le energie, quindi noi, i nuovi assortimenti con cui il territorio e il cittadino dovrà prepararsi a convivere, su questi lì, non sono più vari in una volta. Io credo a questo, quindi questi vanno conosciuti. E poi dire la nostra, senza pensare a fare rivoluzioni, ma vi segnalo su questi, che queste lì quattro cose vanno avanti anche se noi non. E quando le scopri possono evitarli. Quindi anche tutto quello che si dice, secondo me, bisogna collegarlo con questi nuovi modi di gestire il territorio, che sono su questo, Paolo, però devi parlare anche dei pensieri, no? Però su subito, pensate, solo il 2% ha votato di elementi di diritto. Tutti in questo territorio si pagherà il contributo. Ma perché il 2%? E meno male che un convento si fece un'iniziativa all'ultimo gruppo, però quell'iniziativa anche politica di fase venne qualche amministratore, dice ragazzi, il giorno prima almeno gli dici che so, e fu un piccolo dibattito di Zona Cesarini, ma normalmente è passato sulla testa di tutti. E senza sapere questa roba non mi ricordo a parlare di questo si diceva. Però purtroppo guardate, non è che c'è altre cose da dire su questi, in questo visto da tutto il cibo altre, ma indipendentemente era comincio ci lo tutto, c'è niente comincio ci lo tutto, era già bello di cibo a fare tutto, questi arrivano fino al mare, quindi metti questo, metti tutto gli altri, ma che si gestiscano 80.000 ettari, se vendere oltre così, E lì ci spirito la possibilità di poter fare queste cose, di non poterle fare. Ma sono cose anche belle, basta gestirle, basta. E più gente ci partecipa, probabilmente meglio che grande. Apro una parentesi, chiudo una parentesi. Qui si dà questi fenomeni. Sì, sì, il problema di quella che la gente è andata soltanto per il docente totale è che nella mentalità comune è imperfetto. Quando si vede arrivare queste cose di bonifica, è peggio di quando vedi arrivare gli abbonamenti del telefono e se uno pensa subito a truffa. Quindi dice, noi si sbaglia perché, ma insomma, se uno non ha sempre rubato in casa, ma se sostanzialmente la cosa è sempre stata trasparente, ma una volta che fanno bene, insomma, che posso far bene a valutare, è difficile trasparente. Quindi forse la cosa andava spiegata un pochino. Però se te domande 10 persone, ma il consorzio di Bonifica, storicamente ha imparato le cose lì, se poi oggi hanno fatto cose diverse, ben bene. I nuovi canali in cui gestì questa roba, anche questa roba, se uno non sapesse di scrivere, non sapesse del teatro, secondo me si va a Macedoni, insomma, no? Certo. E né loro hanno interesse a sviluppare questi reni, perché dietro questi nostri libri gli interessi sono le grandi opere, ovviamente, non sono certo il più alto lungo di autore o che la gente può andare a piglia fresco, colore, no, perché non può c'è nessuno. Però volevo dire senza. Ecco, questi hanno già unificato premi dell'altro più di quanto si dice nostra città. Perché te vedi da chi prendeva l'acqua a chi. Ah, ci sono dimenticati. Non so se veniva, poi ci dovremmo andare tutti la protezione di scarico, di tenere. Io ho detto gran parte della nostra vita quotidiana. Se ci metti gli scarichi, i pilieri di dell'acqua, i fiumi, l'opera e vento, l'energia, guarda, che ci rimane poi? Pianto, questo fiume non fiano tutti. Ma io non ho paura di questi nuovi interventi, sono loro partecipati, conosciuti, però tutto, grazie non ci viene interesse. Mi ha fatto così come fate voi, avete fatto altri temi, e io penso sia così, forse se non ci sono delle altre. Però le scommesse su questi strumenti, quindi vanno avanti ogni treno, non è che hanno dato 2%, ma vanno avanti come se avessero avuto la 90%. Basta di 10%.